edizione. Andiamo a Cartagena, in Colombia. Il presidente americano Barack Obama ha tenuto una conferenza stampa a margine del vertice delle Americhe, assicurando che nessuna concessione è stata fatta all'Iran nei colloqui sul nucleare in Turchia. E ancora, ha detto Obama che spera che sia in corso una transizione a Cuba, sottolineando che il comunismo non è comunque una democrazia. Sono le 6 e 16 minuti, il momento della viabilità. Ci ritroviamo subito dopo per una breve rassegna stampa. Prima edizione. Sono le 6:17 minuti e 55 secondi. Vediamo di dare un quadro di quello che troviamo almeno sulle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Allora, naturalmente in molti tengono in primo piano la vicenda degli attacchi in Afghanistan, quella con la quale abbiamo aperto il giornale radio. Torneremo a parlarne naturalmente nel GR delle 7, perché come vi abbiamo detto ci sono aggiornamenti arrivati nella notte, ossia che dopo 18 ore di battaglia le forze di sicurezza afghane sono riuscite ad uccidere a quanto pare gli ultimi terroristi. E comunque il titolo del Corriere della Sera, per darvi un'idea, è: prova di forza dei talebani, attacchi coordinati a Kabul, l'esercito afghano resiste. Repubblica, Afghanistan, i talebani attaccano Kabul, vendetta per gli abusi americani. E La Stampa, Kabul, la vendetta dei talebani. Tutto questo in primo piano. E come altro titolo importante c'è quello dedicato alla riforma del mercato del lavoro, o comunque all'agenda di governo. E partirei qua dal Corriere della Sera, che riporta di una telefonata tra la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia e il presidente del Consiglio Mario Monti, dopo lo scontro dei giorni scorsi, lo scontro a distanza. Marcegaglia chiama il premier, disgelo dopo la sfida sul lavoro, la richiesta di modifica alla riforma sull'articolo 18 e flessibilità in entrata. Scrive il Corriere: dopo lo strappo sulla riforma, ieri Emma Marcegaglia ha chiamato Mario Monti, il rapporto si ricuce, ma la presidente uscente di Confindustria ripete che il provvedimento va corretto in Parlamento. Questo quello che scrive il Corriere della Sera, dal quale tiriamo fuori quest'altra storia interessante. Inchiesta sulla sanità lombarda, il verbale del fiduciario di Dacco in Svizzera. Pagati viaggi per Formigoni e il fratello. Dall'indagine sulla sanità lombarda risultano pagamenti di viaggi al presidente della regione Roberto Formigoni e al fratello del governatore Carlo. Sono indicati nel verbale fiume reso dal fiduciario svizzero di Pierangelo Dacco, arrestato nell'inchiesta sul crack dell'ospedale San Raffaele di Milano. La Repubblica, ha un'apertura in questo caso sulla riforma del mercato del lavoro, e qua però il titolo è diverso, perché si parla delle modifiche in arrivo. Lavoro, pronti alle modifiche. Il ministro Passera cerca di ricucire con le parti sociali. La riforma è migliorabile ma andrà in porto. Oggi tra l'altro arriva la delega fiscale, come abbiamo raccontato poco fa nel giornale radio. Il presidente del Consiglio Monti dice basta strappi, e si riporta anche di una lettera della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Prima abbiamo sentito al Corriere della Sera della telefonata con Monti, di una lettera al Quirinale nel quale la presidente di Confindustria, così racconta la Repubblica, ha scritto e ha ribadito: l'accordo è stato stravolto. Tutte le questioni che riguardano il finanziamento dei partiti ancora che restano in primo piano, sempre sulla Repubblica, finanziamenti dal 94 ad oggi, anche a gruppi fantasma, partiti senza soldi è il titolo, bruciati 2,3 miliardi di euro. Dal 94 ad oggi i partiti italiani hanno bruciato 2,3 miliardi di euro. Il centrodestra in testa con 916 milioni, 750 la galassia oggi incarnata dal PD. Molto spesso i finanziamenti appunto anche a partiti fantasma. Da segnalare dalla Repubblica anche un'intervista al segretario di Josef Ratzinger. Io, padre Georg, vi svelo chi è davvero Benedetto XVI. Un pontefice che ha coraggio, che non ha paura di affrontare questioni delicate e la cui immagine, invece già da cardinale come quella di un poliziotto, ma anche dopo, è stata presentata spesso in modo deformato e distorto. Così padre Georg. Altra vicenda interessante che vi segnaliamo, perché è un tema del quale quasi certamente si discuterà nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Il via al piano obesità, anti-obesità, meno grassi nelle merendine, una tassa sulle bibite, guerra del governo contro il junk food. A quanto pare il governo sarebbe intenzionato a porre dei limiti, come dire, alle calorie o alla generazione di obesità, se così vogliamo chiamarla, all'interno di determinati alimenti, e nell'eventualità non vengano rispettate queste cose, ci si prepara, per così dire, ad alzare le tasse. Sempre sull'agenda di governo, la stampa titola sulla roadmap di Monti, sviluppo. La roadmap di Monti, è questo il titolo. Settimana chiave, il patto con i partiti è chiaro, chiudere i casi, sviluppo e lavoro prima delle amministrative, anche da Passera segnali di apertura, pronti a trattare. C'è da segnalare questo doppio tema, il tema appunto dei partiti, che viene affrontato però dal lato politica e antipolitica. Dalla stampa i titoli affiancati non a caso sono sulla sfida fra politica e antipolitica, sono su Bersani, che dice il vento cattivo rischia di spazzarci via, e si riferisce in realtà a tutta la politica, e Grillo che dice, Grillo comizia raffica e dice il terzo polo siamo noi. Il Messaggero, lavoro modifica in arrivo il titolo, a centropagina si parla di Afghanistan, a centropagina c'è però anche una grande foto della maglia di Morosini, il calciatore, come sapete, che è morto in campo. Mai più come Morosini, inchiesta su errori e ritardi, e la fidanzata che dice era bellissimo. Il Sole 24 Ore di oggi, il Sole 24 Ore del lunedì, come sapete, tasse e tariffe 1500 euro in più, è un po' il contenuto del servizio che abbiamo sentito poco fa all'interno del giornale radio. Il mattone assorbe il 30% dei rincari, conto fino a 200 euro per i ritocchi dell'IVA. Il commento di prima pagina è di Fabrizio Forché, livello d'allarme sul fisco. Adesso serve coraggio. A centropagina, con l'addio alla mobilità e alla cassa in deroga, escono di scena gli incentivi al ricollocamento. Rischio stop per i bonus sul lavoro, segnala il Sole 24 Ore. Il DDL Fornero mette in pista i nuovi standard per i servizi all'impiego. E poi c'è il maxi poster dell'IMU. Dai vani all'aliquota, quanto pesa la casa, passo per passo il calcolo dell'acconto. E c'è anche un'altra guida del Sole, quella allo spesometro e redditometro e shopping sotto controllo, una guida del Sole 24 Ore oggi in regalo. Vi vogliamo segnalare in chiusura di questa parte di rassegna stampa quello che è il titolo dedicato alla vicenda di Belsito, il tesoriere della Lega, ed è il titolo de Il Giornale, che parla di un'intercettazione shock. Mi sparo in bocca, questa l'apertura de Il Giornale, tra virgolette, a parlare proprio Belsito. Sfogo dell'ex tesoriere leghista dopo lo scandalo Tanzania, mando una lettera e poi puntini puntini, appunto, mi sparo in bocca. Nel frattempo parla il giornale di deputati PD spudorati, chiedono di raddoppiare i fondi ai partiti, si parla di un progetto di legge a firma del tesoriere PD Sposetto, che prevede finanziamenti statali ai partiti per 345 milioni l'anno. Prima edizione. Sono le 6:35 minuti, è il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. 16 aprile, Radio 24, Italia in controluce, in studio Daniele Biacchese. Laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico. Il tema è molto delicato, per aiutarle a ritrovare il sorriso e l'autostima. È la storia che ci racconta oggi Maria Luisa Pezzali. Un piccolo gesto che si dà per scontato quando stai bene, sei sempre di corsa, no? E invece la malattia ti ferma, ti fa fermare, ti fa riflettere, ti rendi conto che un rossetto, un rimmel, osservi delle parti del tuo corpo che le dai per scontate perché ci sono, tipo le sopracciglia e le ciglia. Io non sapevo che anche le ciglia si perdevano durante le cure, invece si perdono, e quanto sono importanti in uno sguardo. Allora ti insegnano a vedere i tuoi punti di forza, perché abbiamo tutti i punti di forza e ce li abbiamo anche durante la malattia, perché queste cose fanno parte di noi, la malattia non le toglie, anzi ti fa vedere le cose in un modo diverso. Barbara è un'ex malata di cancro. Durante la malattia ha visto il suo corpo cambiare, subire le trasformazioni che gli effetti secondari delle terapie cui era sottoposta comportano. You are so beautiful. Barbara ha partecipato a uno dei laboratori di bellezza che La Forza e il Sorriso, versione italiana del progetto Look Good, Feel Better, nato negli Stati Uniti nel 1989, tiene dal 2006 in tutta Italia in collaborazione con una trentina di strutture tra ospedali, associazioni e onlus. Laboratori di make-up gratuiti per donne in trattamento oncologico, tenuti da un team di consulenti di bellezza con l'aiuto di uno psicologo per aiutare le pazienti a ritrovare il sorriso e l'autostima. Ritrovi l'amore per te stessa, che è giusto che ci sia in un momento che comunque di debolezza emotiva e fisica, no? E io la considero, La Forza del Sorriso, la prevenzione dell'anima, l'arte della cura, perché si può curare il cancro a livello scientifico ed è importantissimo, fondamentale, ma se non lo si cura nella mente e nell'anima non si è completamente guariti. Io l'ho vissuta come una crescita interiore, che è fondamentale. Anche un rossetto, anche un incontro che può tra virgolette sembrare il make up una cosa esteriore, invece è proprio un inizio di cura dell'anima. Poi appunto la condivisione è fondamentale. Can't you see? Simona Caletti è una delle consulenti di bellezza che presta volontariamente il proprio servizio per l'associazione. Alla fine l'atmosfera che si crea, ci dice, è quella di un salotto tra amiche. Si viene subito a creare veramente una specie di squadra di amiche, tra virgolette. Molti infatti si scambiano i numeri di telefono e poi si risentono a distanza. E quindi magari si arriva ad un certo punto dove magari si spiega come stendere un rossetto e c'è qualche persona che inizia a raccontare della propria esperienza e le altre si uniscono raccontando la loro, per cui si crea veramente come una specie di salotto tra amiche. Grazie a Maria Luisa Pezzali per queste storie italiane e Italia in controluce. Torniamo oggi alle 13:30 con nuovi reportage e nuove vicende italiane su Radio 24. Sono le 6:39 minuti, noi adesso affrontiamo un argomento del quale tanto abbiamo parlato in questi giorni, in queste settimane, ne ha parlato anche il nostro Oscar Giannino. Parliamo dei suicidi che sono avvenuti tra alcuni imprenditori, un tema che sta arrivando sempre più all'ordine del giorno. La CGIA di Mestre ha calcolato che 23 persone dall'inizio dell'anno, secondo la CGIA di Mestre, appunto, si sono tolte la vita a causa della crisi, motivi naturalmente la difficoltà ad avere credito, i debiti con il fisco, appunto i problemi con le banche e le difficoltà negli ordini, insomma i motivi sono tantissimi. Allora io saluto Pietro Giordano, che è segretario generale di Adiconsum. Buongiorno. Buongiorno. il quale insieme alla Filca CISL, se non erro, e su iniziativa di una vicenda anche di questa, se ne è parlato molto, di due figlie di imprenditori che si sono ritrovate dopo il suicidio dei loro genitori, darete vita ad un'associazione? Sì, diamo vita a un'associazione che è Speranza al Lavoro, e stamattina appunto andiamo dal notaio per fondarla definitivamente e quindi avviare questa nuova associazione che vuole essere un luogo di incontro tra le famiglie e le persone che in qualche modo, e anche le categorie, perché la Filca CISL è la categoria degli editi, che è una categoria anch'essa, diciamo, non troppo bene trattata in questo momento dalla crisi economica. Ci spiega qual è l'obiettivo di un'associazione di questo genere, Giordano? È un obiettivo di informazione rispetto a una serie di diritti, ad esempio sul fisco, sulle tasse, ma è anche un modo per realizzare un fondo sul sovraindebitamento che può diventare un aiuto per quelle famiglie che si trovano sovraesposte, siano esse famiglie di imprenditori, siano esse famiglie di lavoratori, siano esse famiglie di consumatori che si trovano sovraesposte rispetto a un fisco che a nostro avviso in questo momento, diciamo, ci sembra un tantino esoso, nel senso che non è esoso perché le tasse le dobbiamo pagare tutti, ma spesso le tasse si decuplicano al momento in cui il consumatore, piuttosto che l'imprenditore, piuttosto che il lavoratore, non riesce a coprire una maggiorazione un po' troppo esagerata al momento in cui scattano le banalità. Ecco, affrontare sia dal punto di vista culturale, quindi poi fare proposte anche nuove di nuovo meccanismo di fisco, sia aiutare quelle famiglie in stato di bisogno, ecco, questo è il compito che ci rendiamo con questa associazione che è Speranza al Lavoro. E mi scusi, c'è anche l'idea di offrire qualche tipo di supporto psicologico, perché insomma sia psicologico sia legale sia con consulenza fiscale, ma soprattutto psicologico, perché troppo spesso ci si lascia andare e si è isolati sia dalla società al momento in cui non si riesca a pagare i debiti, sia dallo Stato. Invece un supporto sia sociale, quindi un gruppo che può sostenere, sia psicologico e quindi con professionisti logicamente del campo, può aiutare sia la famiglia in generale, ma sia chi si trova in uno stato di bisogno, magari che è temporaneo ma che diventa drammatico in quel momento. E intendete, questa è l'ultima domanda che le faccio, intendete estendere l'interesse dell'associazione oltre quelli che sono gli imprenditori, perché appunto abbiamo sentito tante storie di imprenditori schiacciati dal fisco, le difficoltà con le banche, insomma tutto quello che vogliamo, abbiamo sentito anche tante storie di operai che hanno provato, si sono tolti la vita a causa della crisi. E appunto vuole essere vogliamo estenderlo perché per togliere anche alcune barriere tra quelle che un tempo venivano definite classi sociali che non hanno più senso, nel senso che quello che unisce il lavoratore, che anche, no, anche tra i lavoratori purtroppo ci sono i suicidi di questo genere, ma anche tra consumatori, penso a molti pensionati che non riescono in qualche modo a raggiungere non la quarta settimana ma neanche la terza settimana, o che sono vessati dal fisco, ecco, vuole essere un momento d'incontro, Speranza al Lavoro, in cui tutte queste realtà, tutte queste persone, tutte queste famiglie possono incontrarsi e fare operare insieme per migliorare una situazione che non è certo ottimale in questo momento. Grazie a Pietro Giordano, segretario generale di Adiconsum, per essere stato con noi, e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata anche agli ascoltatori. Prima edizione. Sono le 6:46 minuti e 57 secondi. Per chi è interessato al genere, Walter Lavitola, ex direttore dell'Avanti, latitante in Sud America dal 14 ottobre 2011, è rientrato poco fa in Italia per costituirsi l'aereo all'Italia, che arrivava da Buenos Aires con a bordo Lavitola, è atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 6:41. Noi adesso, prima di chiudere, ci andiamo ad ascoltare un bel paio di minuti di Roberto Benigni, ieri a Che Tempo Che Fa, sul tema della Lega. Tra l'altro, già che sei qua per dire che stai a Milano, non ti è venuta la tentazione di fare un investimento in Tanzania, una cosa che... Io infatti lo direi a Umberto, dov'è Umberto? Umberto. Andrei in Tanzania con Umberto. Andiamo in Tanzania, Umberto, io e te. Dai, si fonda la Tanzania libera, il sindacato tanzano, il Sinta. Ci portiamo fa l'ampolla con l'acqua del Nilo, quello sarebbe spettacolare. Ci dividiamo da quei terroni del Kenya. Faccia una cosa spettacolare, Umberto. Umberto! Ti porto io, dov'è la tele? Umberto, dov'è? Quella là. Vi volevo dire bene. Ci portiamo Renzo, guida lui la macchina, facciamo un film on the road. C'aveva l'autista proprio, sembrava un bancomat, ma lui non conosceva il PIN, non sapeva come fare. Dai Umberto, andiamo in ma poi ho visto, hanno preso, no, è bella la cosa che adesso ci sono i lingotti, sì, i dobloni, era dal tempo di Paperoni e Paperoni non sentivo parlare. I forzieri, c'è cioè i lingotti d'oro della Lega, i dobloni, ma questo non lo sai. Detto di tutto. Un cartone animato bellissimo, sì, Marico, una cosa. Ma hai sentito che hanno detto che a casa della moglie ci sarebbero stati anche dei libri di magia nera, che mi sembra un po'... Di magia nera? Già, la notizia è già che a casa di Bossi c'erano dei libri, già è una cosa... Già, è una cosa bellissima. Poi, un doblone. Poi, i libri di magia nera. È vero, me l'ho dimenticato. I libri di magia nera mi ha fatto un po' impressione. Secondo me però c'è stato un fraintendimento lì. Sì. Siccome la moglie di Bossi, ho detto, faceva tutti questi investimenti, tutti gli ripetevano, signora, ci vuole la fattura, ci vuole la fattura. Probabile che lei... Attento, ti fai male. Come si chiama la signora? La signora Marombo Morroni. Sì, sì. Ora il signor ci vuole la fattura. E io sono messo a studiare questa magia. Ti dico, guarda, sono cose dell'altrodo. Lui è un coso, diciamo, queste camicie verdi, hai capito? Queste lauree in bianco, i conti in rosso. Camicie verdi, lauree in bianco, conti in rosso, c'è una bandiera italiana da fare. Il tricolore. Ed è così che chiudiamo prima edizione. Un ringraziamento a Diego Rovelli in redazione, Peter Bescapè in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci risentiamo tra poco con il giornale radio.